Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna. Dopo un doveroso periodo di pausa agostiana, ritorna in voce, ritorna dal vivo Città Fujiko Live Club, trasmissione che ogni mercoledì più o meno si preoccupa di farvi ascoltare un paio di ore di musica live di ogni genere e di ogni epoca. Siamo praticamente, anche se ufficiosamente, all'inizio della nuova stagione 2023-2024, 2023-2024 come preferite, e ufficiosamente perché ufficialmente la stagione radiofonica di Radio Città Fujiko non è ancora partita, ma io sono qui a trasmettere e voi spero ad ascoltare. E come prima trasmissione della nuova stagione mi riallaccio all'ultima di quella vecchia, anzi alle due ultime di quelle vecchie. Chi è stato all'ascolto si ricorda che avevo parlato come novità di Eric Clapton e del suo 24 Nights. 24 Nights è un doppio album che è stato pubblicato l'8 ottobre del 1991 in formato 2 CD, e comprendeva le highlights di una serie di serate che Eric Clapton aveva fatto nel corso di 2 anni, 1990-1991, alla Royal Albert Hall di Londra. Serate che erano state divise praticamente in 3 parti, una parte rock, una parte blues e una parte orchestrale. Nelle ultime 2 trasmissioni, e sto parlando della fine di luglio, ci siamo ascoltati la parte orchestrale, anzi no, ho perso un colpo, nel senso che quest'anno è stato pubblicato il 23 di giugno un mega box che non solo comprendeva le highlights come i 2 CD precedenti, ma comprendeva buona parte del concerto che era stato fatto. Infatti è stato diviso in 3 parti, due CD, un doppio CD orchestrale, un doppio CD blues e un doppio CD rock. Noi ci eravamo ascoltati come novità appunto la parte orchestrale e la parte rock e la parte blues. Oggi è il momento per concludere questa trilogia, finalmente direte voi, della parte rock. Quindi ce ne andiamo subito ad ascoltare, c'è anche Lyle naturalmente in questa parte rock, ma noi andiamo un po', cominciamo in una maniera dolce, una maniera molto lenta, una maniera secondo me bellissima. Il brano che ci andiamo ad ascoltare si chiama Can't Find My Way Home, Eric Clapton. So now we'd like to do a song that Blind Faith did about 20 years ago. It will feature Nathan on vocals and it's called I Can't Find My Way Home. Thank you. Nathan East. Come ha detto lo stesso Eric Clapton, questo brano è cantato dal bassista Nathan East, un brano che apparteneva al repertorio dei Blind Faith e chiaramente era cantato all'epoca da Steven Winwood. Comunque il brano si chiama Can't Find My Way Home ed è uno dei brani assolutamente fantastici di quel fantastico album che appunto risponde al nome di Blind Faith. E continuando sulle orme delle ultime due trasmissioni, mi riallaccio al fatto che appunto questa serie di tre doppi album che vi ho proposto come novità nelle ultime tre trasmissioni sono registrati alla Royal Albert Hall. Ci ascolteremo adesso dei brani che sono stati registrati in questo magnifico locale che è stato inaugurato nel 1871, però rinnovato nel 1996 e nel 2004, e che comprende 5272 posti comodamente seduti. Ci sono anche dei palchi nei quali si può andare, molto molto costosi, con tanto di champagne e altre cose che poco c'entrano secondo me con un concerto rock, ma questo è un discorso molto personale. Fra l'altro Eric Clapton ha suonato alla Royal Albert Hall più di 200 volte e già sono annunciati quasi sold out dei concerti che si svolgeranno nel prossimo maggio. E se nella penultima trasmissione abbiamo ascoltato brani orchestrali, nell'ultima invece abbiamo ascoltato delle band, degli artisti americani, oggi è la volta di artisti e bands delle isole britanniche, perché cominciamo subito da una band irlandese. Vengono da Dublino e sono attivi dal 1985, anche se spesso e volentieri sono entrati in quello che si chiama hiatus, cioè praticamente hanno abbandonato per qualche tempo la band per dare il via ognuno per proprio conto alle proprie carriere soliste senza mai grosso successo. Hot House Flowers invece è un gruppo che a me piace molto, fanno degli ottimi concerti, spesso durante questi concerti cantano canzoni in gaelico, e che già è difficile capire l'inglese, figuriamoci il gaelico. E qui ho tra le mani un doppio singolo molto molto interessante. Il primo singolo contiene il brano di punta che è This Is It, mentre a seguire tre covers in studio. L'altro dischetto invece comprende sempre This Is It in versione in studio più tre brani registrati dal vivo proprio alla Royal Albert Hall il 4 maggio del 1993. Fra questi io ho scelto questo brano che è proprio la title track, si chiama This Is It, loro sono Hot House Flowers. From your sleep, you've been laid out on the floor, you've been looking around for your family, and now your body's tired and sore. Well, there's rest upon the water, there's an answer in the streets. Say, now's the time to listen. Now's your chance to meet your soul. This is it, your shining soul. This is it, oh, you're all for soul. Listening to In Concert on 1FM. An old line had a strong heartbeat, connecting clouds, moonshine, washing line, like soothing fine on the wall. David Gilmour, thank you so much for the invitation. It's great, David. Thank you. Questo è un singolo un po' particolare da parte di David Gilmour, naturalmente sapete tutti, chitarrista dei Pink Floyd dal secondo album in poi, e dopo la diatriba anche in tribunale con Roger Waters, detentore del nome Pink Floyd, che attualmente però è in disuso in quanto David Gilmour è avviato per la propria carriera solista. Carriera solista che ha visto pubblicare due album dal vivo, sto parlando, del quale l'ultimo registrato in quel di Pompei, in Italia, naturalmente nel luglio del 2016. Questo Arnold Lane, che è uno dei classici della prima epoca dei Pink Floyd, è stato registrato alla Royal Albert Hall il 29 maggio del 2006, e la seconda voce che avete ascoltato è quella di David Bowie. Infatti la peculiarità di questo singolo è di avere due volte Arnold Lane, due versioni diverse, la prima insieme a David Bowie, la seconda insieme a Richard Wright, tastierista naturalmente dei Pink Floyd. Poi c'è un brano in studio che si chiama Dark Globe. E ci sono dei gruppi che avrebbero potuto avere molta fortuna perché avevano al proprio interno personaggi notevoli, nel caso specifico un grandissimo cantante che si chiama Gary Stringer, poi per una serie di motivi che non staremo a sviscerare invece non hanno raggiunto lo status che meriterebbero. Comunque i Reef, sto parlando di loro, R-E-E-F, sono un gruppo veramente notevole che arriva da Glastonbury. Anche loro sono attivi dal 1993, e anche se poi anche in questo caso c'è stato uno scioglimento nel 2003 per poi riformarsi nel 2010 fino ad oggi. Questo brano, che fa parte di un singolo con due brani in studio e un brano dal vivo, è stato registrato il 1 dicembre del 1994 e si chiama End, loro invece si chiamano Reef. This is the end one. It's called End. Called Reef. Thanks for listening to us. Just can't take it. You stand up on your knife and there's just beauty of walls around there. I'm actually so down, how far me to say hello to you. So listen up as I speak, what's the you that there tomorrow? So down for a week to say hello to you. His honor and His glory, the people sing. Ooh, oh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. Work that found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he laid down and he died. Credo che il trio formato da Keith Emerson, Greg Lake e Carl Palmer non abbia bisogno di presentazioni, come credo, spero, non abbia bisogno di presentazioni questa splendida Lucky Man, un altro brano molto lento per non agitarsi troppo con questo caldo, e il tutto tratto da un album che si chiama semplicemente Live at the Royal Albert Hall. Album che è stato registrato nell'ottobre del 1992, quindi diciamo in una fase della carriera di Emerson, Lake & Palmer non propriamente brillante, ma questo album è invece molto molto interessante. Ma arriviamo a tempi un po' più recenti, anche se non oramai recentissimi. Siamo nel 2015 e c'è alla Royal Albert Hall una serata di beneficenza per raccogliere fondi per il Teenage Cancer Trust, un'associazione che appunto si preoccupa di curare, reperire fondi per curare i giovani ammalati, i ragazzi, i bambini ammalati di cancro. E in quella serata comparivano diversi artisti, diverse bands, fra cui gli Stereophonics, che in quell'occasione registrarono 4 brani e pubblicarono un singolo praticamente, che i cui proventi naturalmente andarono sempre al Teenage Cancer Trust. E Stereophonics sono un altro di quei gruppi che meriterebbero più fortuna dalle nostre parti, mentre in Gran Bretagna sono molto considerati, e che hanno fatto un solo album live nel 2006, quindi sarebbe meglio che si dessero un po' una mossa per farne uno nuovo. Comunque, il brano che ho scelto per voi ce lo presenta lo stesso Kenny Jones, che è il leader e chitarrista della band, e fa più o meno, dice più o meno così. It's beautiful to be back here, thank you very much for coming down. This was called Graffiti on the Train. Train. Oh, now, holding on to her life. getting close to asking her the question. Marry me, he wants to paint the words on that train. He's hiding with his freak as the night is gonna ride when the plane is done and dried. Oh, come on. Voce inconfondibile quella di Paul Weller, ce lo siamo ascoltati con un album che molto molto originalmente si chiama Live at the Royal Albert Hall, il brano di apertura è questo The Changing Man, che è uno dei suoi classici. Paul Weller che vedremo in concerto fra un mese, il 21 settembre prossimo all'Estragon qui a Bologna, e non vi starò a dire appunto che lui aveva iniziato la carriera con i Jam, poi proseguito con gli Style Council e poi la propria carriera solista piena densa di soddisfazioni, e soprattutto per quel che riguarda il suolo britannico. E ci sono anche delle superstar che hanno pubblicato album, in questo caso o brani registrati alla Royal Albert Hall. Infatti questo album dei Coldplay, che si chiama semplicemente Ghost Stories Live 2014, è stato registrato in diverse parti del mondo, e un brano è registrato appunto alla Royal Albert Hall nel 2014, e questo brano si chiama A Sky Full of Stars, un cielo pieno di stelle, Coldplay. Give you my heart. Questi erano i Coldplay con il loro Cielo pieno di stelle, una registrazione del luglio del 2014, Royal Albert Hall, così come in questo locale è stato registrato il prossimo brano. Il tempo sta stringendo, per cui vi dirò soltanto che si tratta di Mr. Robert Plant, indimenticata voce del Zeppelin naturalmente, ma con una carriera solista che pur altalenante sta dando soprattutto negli ultimi tempi insieme a Alison Krauss molte soddisfazioni. Questa registrazione è stata effettuata nel febbraio del 2002, fa parte di un singolo dello stesso anno che comprende questa cover di un brano dei Love, come ci spiega meglio lo stesso Robert Plant. Last song. The song that's been in my back pocket, in the car, in the suitcase, in everything, in and out of my head since 1967. And it's written by Arthur Lee from the Forever Changes album. It's called A House Is Not a Motel. bad you're for me. Knock, knock, knocking on heaven's door. Beh, questo era facile, un pezzo di Bob Dylan rifatto in maniera reggae, anche se non del tutto, diciamo, da Eric Clapton ormai da decenni. Si chiama Knocking on Heaven's Door e apre il secondo dischetto di questa novità che vi propongo quest'oggi. Si tratta di 24 Nights, la versione rock, e non mi starò a dilungare ancora spiegando malamente tutta la storia di 24 Nights, ma consiglio caldamente l'acquisto a tutti gli amanti della buona musica, agli amanti di Eric Clapton, e non sbaglierete sicuramente. Knocking on Heaven's Door ha perso la seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi 23 agosto 2023, e come sempre, malgrado il caldo, anche nella seconda parte arriva sempre Record Today, che è la rubrica che si preoccupa di farvi ascoltare i brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel corso degli anni. Come sempre, durante il periodo estivo ci sono migliaia di registrazioni, ma decine sicuramente, perché ci sono i festival all'aperto, perché ci sono più concerti, per una serie di motivi che sapete meglio di me. E in questo 23 agosto ci sono tantissime cose, per cui il criterio di scelta è ancora una volta quello di un brano per ogni decade. Iniziamo subito dal 1978 con un classico, un bellissimo album live già quando uscì nella versione 2 long playing. Era il 24 marzo del 1982, ma quando è stato riedito in versione 2 CD debitamente ampliato con un sacco di inediti nel 2004, è stato veramente fantastico. Infatti adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che nella versione originale in vinile non c'era. È stato registrato al Park West di Chicago, naturalmente il 23 agosto del 1978, loro sono Talking Heads, l'album, forse ho dimenticato di dirlo, l'album si chiama The Name of This Band is Talking Heads, e il pezzo che ci andiamo ad ascoltare si chiama Big Country. Those people at their neighbors and friends. Look at that kitchen and all of that food. Look at them eat it. I guess it tastes real good. They grow it in those farmlands, then they bring it to the store. They put it in the car trunk, then they bring it back home. And I say, I wouldn't live there if you paid me. Traveling, I want to be somewhere. It's not even worth talking about those people down there. Oh. Doppio album sia vinile che CD, The Name of This Band is Talking Heads, è diviso in due parti. La prima parte 1977-1979, la seconda 1980-1981, e questo brano, che si chiama The Big Country, appartiene alla prima epoca della band, quella dal 77 al 79, e infatti è registrato nel 78 con il quartetto ancora ridotto a quartetto, non più ampliato come sarebbe stato poi negli anni successivi. Molto velocemente, perché adesso parte un brano molto lungo che ci porterà fino alla pubblicità e che fa parte di un album che si chiama Neil Young and Blue Note Café. È un album un po' anomalo per Neil Young, perché è accompagnato da una big band, la cosa non è capitata spesso, e in questo caso quel tour fu immortalato appunto in questo doppio dischetto che è il volume 11 della Performance Series di Neil Young. Sapete, gli archivi immensi, e ogni tanto tira fuori qualcosa e lo pubblica. Big Band, come dicevo, con tanto di fiati. Il brano che ci andiamo ad ascoltare era il 23 agosto del 1988, è stato registrato a Lake Compounds a Bristol, ma non in Inghilterra, a Bristol, quello del Connecticut. E il brano si chiama Ordinary People, Neil Young and Blue Note Café. girls made a mess of things. Then the homeless just walked right in. Well, they worked here once and they live here now, but they might work here again. The everyday people, they're living in a nightmare. Nose to the stone people, and they don't know how they got there. Hard working people, and they don't think that you care. Catch your ground, people. See you, Las Vegas. Yeah, we're getting ready to shut down the programs of Vietnam. Incazzati come sempre, questi erano Rage Against the Machine, un brano che si chiamava Vietnam e che è stato registrato in quel del Palace di Auburn Hills, che è un sobborgo di Detroit in Michigan, esattamente nel 1997, naturalmente il 23 di agosto, essendo questo Recorded Today. È un singolo, comprende due versioni di The Ghost of Tom Joad, quella di Bruce Springsteen naturalmente, una in studio e l'altra live, però quella live è registrata in settembre, quindi magari sarà il prossimo mese in Recorded Today. E niente, Rage Against the Machine, come dicevo, ben parecchio incazzata, che è attiva dal 1991, anche se poi si sono sciolti, litigato, hanno fatto tantissime cose per distruggere praticamente la loro carriera, ma la loro coerenza politica, diciamo così, è sicuramente senza macchia. E sono tuttora in giro, vediamo, che però dal 2000 non pubblicano album, speriamo che lo facciano presto. Anche se vengono accreditati come i paladini del desert rock, Queens of the Stone Age arrivano da Seattle, stato di Washington, che di deserto ne ha veramente pochino, e sono attivi dal 1996 con Josh Homme, chitarrista e cantante, come unico membro costante e come leader, che ha visto girare intorno a sé fiori di musicisti, fra l'altro alla batteria Dave Grohl, oppure al canto Mark Lanegan, e insomma e tanti altri sicuramente di grido. Quello che ci andiamo ad ascoltare, contrariamente al solito, che è un CD con allegato DVD, questo invece è un DVD live con allegato un CD live. Il tutto è stato registrato al Cocoa di Londra il 23 agosto del 2005. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è uno dei più noti da parte di Queens of the Stone Age, si chiama No One Knows. Oh, I drift along the ocean's dead lifeboat in the sun, and come undone, pleasantly caving in, I come undone. And I realize, yeah, I really have to pay my own. I realize, yeah, my own. I really have to pay my Good to see you again, London. Thanks so much. I know who you are and you know who the... Brano conclusivo del concerto del 23 agosto 2005 in quel di Auburn Hills, sobborgo di Detroit, come vi dicevo. No One Knows, il brano che ci siamo ascoltati da questi Queens of the Stone Age. L'album, ho dimenticato prima di dirlo, si chiama Over the Years and Through the Woods, appunto, ed è un live DVD / CD, come è scritto nella copertina principale. Il brano che ci siamo ascoltati, No One Knows, che è uno dei loro classici in assoluto e che ha avuto diversa fortuna, parecchia fortuna per meglio dire, come singolo. Andiamo velocissimamente perché il tempo come sempre sta stringendo. Passiamo al 2019, siamo al Locken Festival che si svolge a Arlington in Virginia. Sul palco è stato invitato, cioè a suonare a un concerto, è stato chiamato Trey Anastasio con la sua band. Lui solitamente naturalmente è chitarrista titolare dei Fish, ma poi, come spesso succede nei Fish, hanno tempo per le proprie carriere soliste. La Trey Anastasio Band in quell'occasione arriva sul palco e il buon Trey ha pensato nella seconda parte del concerto di invitare il suo amico nonché collega Derek Trax, due chitarristi super, assolutamente super a confronto, con delle cose veramente incredibili. Penso che sia un clinic per ogni chitarrista che si rispetti. Purtroppo sono tutti brani lunghi, per cui non ve li posso far ascoltare, ma non mancherà occasione. Quello che invece vi faccio ascoltare è il brano più corto, 5 minuti 24, si chiama More. Ma prima vi voglio ricordare che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club dai 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonico di Radio Città Fujiko, e ogni mercoledì un paio di ore di musica dal vivo, per cui l'appuntamento è per mercoledì prossimo. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, vi lascio in compagnia Trey Anastasio Band with special guest il buon Derek Trax. Ciao a tutti da Nevio. Life in slow motion, feet are in the clay. I'm going nowhere, been standing here all day. I had a notion there was something more to do as I watched the water from the banks of the river. It swelled and grew, and I tilt to the left, lean to the right, tilt to the left and lean to the right. Walked on coal and slept on glass amid swords of sound and daggers of light. And my heart is screaming, cause half of what I say is lies, and it takes so much to keep up this disguise. It takes so much to keep up this disguise. I see a doorway in the haze, and I'm trying to get to it. Stars are peepholes in a wall, but we can walk through it. The memory's still so real. The memory's still so real. I guess it's never really over, even when it's over. But I'm vibrating with love and light, pulsating with love and light in a world gone mad. Bending low, there's a great fire in the distance. There must be something more than this. Our shadows will all be dancing with red dust on our clothes when we leave by tornado. Elbows in the clouds and feet in the sky. We're vibrating with love and light, pulsating with love and light in a world gone mad. Pulsating.